Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Oggi venerdì 10 aprile diamo anche noi il nostro piccolo contributo, e lo faremo ancora nei prossimi giorni, a quello che sta accadendo, alla tragedia che sta colpendo le popolazioni in Abruzzo colpite da un sisma durissimo. E vi leggo soltanto un titolo di giornale di due giorni fa, La Nazione, il gruppo Riffeser, quindi Nazione, Resto del Carlino e Giorno, che titolano Caccia ai predoni. Terremoto, gruppi di sciacalli intorno alle case sventrate, scattano i primi arresti. In questo momento di estrema confusione abbiamo anche ascoltato e sentito notizie di persone che sono state arrestate e poi invece rilasciate perché nulla avevano a che fare con i furti. Certo è che il Corriere.it tre giorni fa titolava «Arrivano gli sciacalli da tutta Italia». Un reato abietto, tanto che il Consiglio dei Ministri, il governo ha pensato bene di aggravarne le conseguenze, renderlo ovviamente più stringente e colpire ancor più duramente queste persone che non hanno bisogno di essere presentate come uomini, sono semplicemente dei delinquenti. Noi per parlare dei sistemi di prevenzione, di quello che si sta facendo all'Aquila, abbiamo in linea il tenente della Guardia di Finanza, Agostino Taurino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io le faccio una domanda semplice, introduttiva, proprio per capire il vostro impegno. Che tipo di lavoro voi effettuate all'Aquila? Il nostro lavoro è sostanzialmente rivolto a garantire che le strutture che sono rimaste incustodite, le abitazioni che non sono completamente crollate, rimangano... non vengono saccheggiate da queste persone che, spacciandosi per giornalisti o parenti di vittime, cercano di oltrepassare la nostra circolazione. Certo. Che facciamo all'interno della città. Della città dell'Aquila. Ecco, ma quanti siete? Siete divisi in pattuglie? Siete corpi interforze? Siamo delle squadre che ci organizziamo sostanzialmente in gruppi di 10 con a capo un ufficiale o un ispettore, e cinturiamo le varie zone secondo un piano che è stato concordato anche con le altre forze di polizia, e cerchiamo di evitare appunto situazioni di sciacallaggio. Ecco, le chiedo questo: i gruppi di 10 sono fatti da 10 appartenenti alla Guardia di Finanza, oppure avete anche dei gruppi interforze in cui partecipano carabinieri, polizia, magari anche polizia municipale? Come funziona esattamente la distribuzione dei compiti? Le nostre squadre sono composte solamente da appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, i carabinieri si sono organizzati alla stessa maniera, quindi non abbiamo dei gruppi interforze, però il piano di intervento è interforze in questo senso. Ed è coordinato ovviamente dalla Protezione Civile. Protezione Civile e Questura. Quante squadre ci sono in giro per l'Aquila della Guardia di Finanza? Il numero esatto varia, perché poi comunque ci dobbiamo alternare con dei turni per il riposo, ma varia da 4 a 5 per turno. Ho capito. Ecco, ma al di là dell'Aquila, la Guardia di Finanza presiede, controlla e vigila anche altri centri abitati dei comuni maggiormente colpiti? A seconda di dove ci vengono, siamo indirizzati, possiamo cinturare le mura della città dell'Aquila o dei vari paesi che sono stati colpiti dal sisma, come Paganica, come Onna e o altre zone della limitrofe alla città, non proprio nel centro storico. Ecco, una cosa volevo chiederle: ci sono dei gruppi di volontari anche che partecipano a queste ronde? Chiamiamole ronde, è un termine anche abusato, non sono ovviamente delle ronde, sono le squadre di vigilanza. Ci sono anche dei volontari oppure no? No, i volontari non intervengono in questo tipo di servizio, anche per la loro sicurezza, che potrebbe essere messa in pericolo sostanzialmente, quindi non intervengono assolutamente in questo tipo di servizio. Assolutamente. Ecco, si legge spesso di queste notizie, dobbiamo anche abituarci a queste notizie in cui si danno per arrestate delle persone che poi vengono rilasciate qualora si scopre che effettivamente avevano curiosato, ma tra gli effetti personali, quindi andando alla ricerca delle proprie cose. Ieri abbiamo sentito, due giorni fa abbiamo sentito di questa persona abbastanza anziana che aveva messo 80.000 €1000 in un barattolo e nipoti o comunque conoscenti li avevano recuperati. In queste vostre azioni di pattugliamento vi siete imbattuti già in persone che avete arrestato oppure, come dire, finora siete stati fortunati in questo? Devo dire che siamo finora stati fortunati, però il rischio che possano succedere delle situazioni di questo tipo è elevato, perché bisogna identificare la persona e avere una conoscenza del luogo abbastanza approfondita. Noi abbiamo avuto la possibilità, cioè abbiamo avuto la fortuna di non imbatterci in queste situazioni per il momento. Ecco, conoscenza del luogo abbastanza approfondita, tenente, vuol dire che le squadre sono sostanzialmente composte da persone dell'Aquila o che comunque conoscono quelle zone, oppure possono provenire anche da altre aree del paese? Possono provenire anche da altre aree del paese. La conoscenza a me era riferita al fatto che su un'abitazione c'erano 5 famiglie, dove dobbiamo essere a conoscenza di quale famiglie erano nell'abitazione. Questo è il problema che si presenta sostanzialmente, per evitare situazioni a cui faceva riferimento lei prima. Ho capito. Volevo chiederle anche un'altra cosa. Al di là dell'azione di vigilanza, lei mi accennava prima fuori onda anche all'azione di cinturaggio. Sì. Che cosa vuol dire esattamente? Può spiegarlo ai nostri radioascoltatori? Evitare che curiosi o persone che vogliono farsi un giro per la città vadino per strada così, passeggiando senza motivo. Ecco, curiosi, che le persone oltrepassino determinati limiti che ci vengono segnalati dalla protezione civile. Certo, no? Curiosi come quelli che solitamente si vedono sull'autostrada quando c'è un incidente stradale, si mettono lì a curiosare, a guardare. Ma perché voi temete, probabilmente ne avrete anche parlato in questura e con le altre forze dell'ordine, temete che ci possano essere anche degli sgradevoli, odiosi fenomeni, come dire, di turismo, di sciacallaggio, vale a dire persone che vengono lì apposta per fare fotografie, per rendersi conto della situazione? Speriamo che non ce ne siano, per il momento non ce ne è capitato. Se qualcuno fa delle foto che non dovrebbe fare, cerchiamo comunque nei modi dovuti di allontanarlo dal posto. Assolutamente, ecco, è ovvio. All'Aquila, in questa splendida città devastata dal terremoto, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, ovviamente c'è una scuola della Guardia di Finanza, vero? Certo, io appartengo alla scuola della Guardia di Finanza. Esattamente, lei appartiene alla scuola della Guardia di Finanza. Le chiedo, ma voi effettuate anche nei vostri corsi di preparazione anche delle azioni mirate alla prevenzione o al soccorso e alla vigilanza in questi casi di catastrofe naturali, e quindi siete, come dire, preparati in un certo senso, oppure non rientra nei compiti istituzionali? Noi siamo come compiti istituzionali di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, quindi noi comunque siamo preparati a una situazione del genere. Infatti noi il primo giorno siamo stati i primi ad intervenire su determinati luoghi, poi sono sopraggiunta la protezione civile e tutti gli altri mezzi di soccorso. Cioè, noi eravamo, tra virgolette, abbastanza equipaggiati per una situazione del genere. Abbiamo sentito dire, e questo qui rientra nella logica, dal governo di un'organizzazione molto efficiente. Finché lo dice la maggioranza è ovvio, ma poi abbiamo sentito anche l'opposizione con la voce di Franceschini dire che le operazioni effettivamente sono state, le operazioni soprattutto di primo soccorso, ben orchestrate. Quindi per fortuna maggioranza e opposizione concordano nel dire che i primi soccorsi stanno funzionando. E quanto a voi, le chiedo, tenente, la suddivisione dei ruoli, quindi la mappatura, la divisione geografica di confine della città dell'Aquila e delle altre città colpite dal sisma, funziona oppure vi siete trovati a volte, ma può capitare, per carità di Dio, a pattugliare una stessa area dell'Aquila? No, perché il nostro supporto logistico è stato subito istituito, una centrale operativa all'interno della scuola che ha contezza di tutte le nostre pattuglie e in quale zona si trovano. Ecco, quindi non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Aspettate nei prossimi giorni un rafforzamento dei ruoli di vigilanza e controllo e cinturaggio, come lo abbiamo definito prima, oppure le forze che avete, le persone che siete, sono sufficienti, quindi basta semplicemente un avvicendamento naturale tra gli uomini? Noi cercheremo di avere un avvicendamento naturale, perché comunque siamo uomini, quindi necessariamente certo, c'è la necessità di un ricambio fisico. Poi se c'è altre persone che ci raggiungeranno, come sarà molto probabile, avremo un cambio anche da un punto di vista di uomini. Indubbiamente. Io, Tenente, la ringrazio ovviamente per i suoi interventi. Vi auguro buon lavoro, lo dico a nome dei radioascoltatori di tutta Italia. Grazie per l'opera che state compiendo e un grazie che ovviamente va a tutte le forze dell'ordine, alle persone impegnate in questi difficili ruoli. Dico grazie in regia a Fabio Cantadori e studio Laura Faggin per la predisposizione di questa puntata. Vi do appuntamento a lunedì, nonostante sia lunedì di Pasquetta. Noi andremo in onda regolarmente, quindi non in replica, con una nuova puntata ancora una volta dedicata a degli approfondimenti a seguito di questo terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Dico buona Pasqua ovviamente a tutti voi.